24, i gialli della storia. L'idea fu mia. All'epoca ero il direttore artistico del teatro Mariinsky e sentivo che lui soffriva per non essere mai tornato e per non aver potuto mostrare al pubblico russo, al suo pubblico, quello che era diventato. Voleva tornare a vedere soprattutto la madre, sentiva nostalgia della sua terra, ma soprattutto la mamma, voleva tornare a rivedere la mamma. E allora Gorbaciov si è deciso, facciamolo tornare. Mi disse, vorrei che questo momento durasse all'infinito, perché forse l'aveva desiderato tanto. Ma un grande momento fu quando siamo andati fuori Leningrado, la sua maestra, e lei gli ha detto, ho dovuto aspettare di vivere fino a 100 anni per rivederti. Ma si emozionò ancora di più a calcare di nuovo, dopo tanti anni, la scena del Kirov, il suo teatro. Fu un momento indimenticabile per tutti noi. Il 10 novembre del 1987 e su invito personale di Mikhail Gorbaciov, il ballerino più famoso del mondo, Rudolf Nureyev, può ritornare in Unione Sovietica. Sono passati 26 anni dalla sua condanna per alto tradimento. Era il 16 giugno del 61 quando il ballerino varcò la cortina di ferro, diventando un'icona della guerra fredda e di quella ricerca di libertà che in Unione Sovietica è impossibile trovare. Ma Nureyev non è stato solo un simbolo politico, è stato senza dubbio uno dei più grandi ballerini del Novecento. E oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia, la sua arte, e lo faremo con le voci, le testimonianze dei colleghi e degli amici. Ascoltiamo il racconto del giornalista Mario Pasi e poi delle ballerine Luciana Savignano e Carla Fracci. Nureyev era un genio ed era un grande professionista. Qualcosa di più era il fatto che egli riuscisse a dare, e questo lo fanno solamente i geni dell'arte, a dare quel senso di partecipazione e di sofferenza che altri non riescono a dare. Non si è mai visto un personaggio che sapesse dominare la scena come lui la teneva, che quando lui entrava in scena tutti gli altri sparivano. Entrava, era come un felino, non so, era un modo anche di danza che lui faceva con una forza, per cui insomma questo dobbiamo essere molto grati a Rudy. Ci lascia uno stile inimitabile. Rudy ha inventato la purezza del movimento, una plasticità che era ed è inimitabile. E questa è la sua grande eredità. Nella danza, quindi, c'è un prima e un dopo Nureyev. Un talento unico e inimitabile, ma perché il suo nome è diventato una leggenda? Nureyev, senz'altro, ha contribuito tantissimo a far sì che il ballerino avesse una sua collocazione ben precisa. Lui era proprio, ballava con la ballerina. Non voleva essere solo porteur. Lui si è messo allo stesso par, alla stessa portata della ballerina e ha fatto sì che il balletto classico soprattutto riportasse ad un livello degno il ballerino. Insomma. A dire il vero, non era un buon partner. Ti reggeva male, secondo i canoni dell'epoca. Al punto che io, la prima volta che ho ballato con lui, avevo un po' paura. Mi ha dato proprio questo insegnamento di essere forte sulle mie gambe, non appoggiarmi al ballerino. Spesso le danzatrici hanno prendi qui, mettimi così, con lui non c'era la possibilità neanche di chiederlo. Nel balletto c'è corpo e gesto. Quando Nureyev entrava in scena, anche nel periodo peggiore della sua vita, il pubblico se ne accorgeva e se ne accorgeva in maniera tale che scattava automaticamente un applauso di sortita, come si usa dire, non provocato e non fatto da clac. Per Nureyev, arte e vita sono la stessa cosa. Una fusione straordinaria che lo rendono unico, meraviglioso in scena e ostico nella vita privata. Ed è in una emozionante intervista realizzata da Vittorio Tolenghi che traspare tutta la sua profondità. Non era uno che recitava un ruolo, era così, basta, era un animale. Era un animale da palcoscenico, era un animale nella vita, era un animale, ma con un'accezione positiva del termine. Sapeva coinvolgerti e travolgerti in tutto. È abbastanza complesso come personaggio, con mille sfaccettature, di grande tenerezza e anche di grandi ire, sfuriate, così. Sul palcoscenico era splendido, ma dietro le quinte era terribile. Certo, il pubblico che andava a vedere i suoi spettacoli lo amava, lo adorava, a volte in maniera fanatica. Non lo amavano invece per nulla gli artisti che lavoravano con lui. Ringraziamo il cielo che ho un po' di temperamento, un po' di passione. Se non si ha un po' di passione nelle cose, uno non vive, esiste. Era pieno di talento, colto, curioso, amante della letteratura, grande conoscitore della musica. Eppure, nella vita privata, poteva essere assolutamente sgradevole, maleducato, sfacciato, rozzo anche. E queste due facce, quella positiva e quella negativa, creavano, per così dire, una miscela esplosiva. Sei felice? Felicissimo. Potresti recitarmi in russo la prima poesia che hai imparato quando andavi a scuola? Ah, belye paros adinoki. Та та та та та та та та. Что ищет он далёк, а в краю далёком, что потерял в краю родном. Che cos'è? Ah, it is a Lermontov. It is poem about È Lermontov. È una poesia che parla di una barca a vela che naviga sperduta nell'azzurro del mare. Il poeta non sa né che cosa abbia perduto quella barca, né cosa stia cercando. È semplicemente immersa nel suo elemento, infelice, inquieta. La sua storia nasce da una grande tradizione della grande scuola del balletto russo. Studia nelle più prestigiose scuole di San Pietroburgo, quelle stesse scuole che hanno portato il balletto russo a farsi conoscere in tutto il mondo. Ho studiato con lui per qualche anno, qui nella prestigiosa Accademia Vaganova. Ed entrambi abbiamo avuto la fortuna di avere come insegnante il grande Pushkin, un vero maestro. È stato lui a formare un'intera generazione di ballerini e tutti sono diventati famosi. Quando ci studiava a Nureyev, San Pietroburgo era ancora considerata la capitale culturale della Russia. Tutto quello che c'era di meglio nel campo delle arti, della musica, della danza, lo si trovava qui. Il balletto era un formidabile strumento di propaganda per i nostri politici. Era l'occasione per far vedere dall'altra parte della cortina di ferro le virtù del comunismo, le grandi possibilità che offriva per lo sviluppo delle arti e della cultura. Nureyev non poteva lavorare qui. No, era troppo diverso. Il suo carattere, la sua educazione, il suo stile di vita erano incompatibili con le regole, i valori e lo stile sovietico. A parole, certo, lui ha sempre dichiarato gratitudine per la sua patria, ma la realtà era un'altra. Qui le sue possibilità di carriera erano limitate. Sì, il pubblico lo amava, ma le autorità non si fidavano di lui e quindi ne limitavano le esibizioni in modo da frenare gli entusiasmi. Non posso dire però che si preparasse alla fuga, questo lo sa solo lui. E nel giugno del 61, all'apice della guerra fredda, il grande salto, la fuga verso l'Occidente che gli cambia la vita e gli apre le porte della notorietà internazionale. L'aereo partiva alle 10 e noi due, che eravamo andati a dormire alle 5, siamo stati gli ultimi ad arrivare. Così al check-in io e Rudy eravamo gli ultimi della coda e parlottavamo con gli amici che erano venuti a salutarci. A un certo punto il nostro accompagnatore politico, sì, c'era sempre qualcuno del KGB quando si andava all'estero, mi ricordo che si chiamava Vitali Andrievich. Beh, si avvicina a Rudy e gli dice: lei non va con gli altri a Londra, lei torna a Mosca. A quel punto si sono avvicinati gli amici francesi, venuti soprattutto per salutare Rudy. Mi ricordo che c'era fra gli altri Pierre Lacotte. Questa fuga la racconta Pierre Lacotte, che è stata la persona che ha aiutato fisicamente Nureyev a fare questi passi. È veramente come in un giallo di Hitchcock. Pierre Lacotte racconta che è stato assolutamente improvvisato. Va a salutare Nureyev, pensando che Nureyev da Parigi sarebbe andato a Londra, e Nureyev gli dice: no, mi spiace, ho saputo che adesso devo tornare a Mosca. E gli ha detto: Pierre, ti prego, aiutami. È stato Lacotte a dire a Rudy, in inglese, in modo che l'uomo del KGB non capisse: senti, sappiamo che ti sei messo nei guai, però la vedi quella porta? Se ti serve aiuto, basta che tu bussi a quella porta e ti rivolgi agli agenti, così resti a Parigi. Ha fatto questi tre passi, lui sapeva saltare, correre. Subito gli agenti del KGB gli sono corsi dietro, però non ce l'hanno fatta a raggiungerlo prima che lui raggiungesse i poliziotti francesi. Ho saputo che era scappato al nostro arrivo a Londra, se non ricordo male alla radio. E io ovviamente ci sono rimasta di stucco. Ma vi assicuro che in quel momento l'unica cosa che ho pensato è stata: e adesso come farà tutto solo in un paese straniero? La fuga in Occidente rende Nureyev molto popolare, ma a portarlo al successo artistico e umano è l'incontro con una grandissima ballerina inglese, Margot Fonteyn, con cui nasce un connubio indissolubile. Per ambedue è stato un momento importantissimo per il loro percorso artistico, perché lui stava cominciando e lei stava finendo. Quindi è scattato un qualche cosa per cui si sono fuse queste due forze e ha fatto sì che fosse questo momento magico, irripetibile a tutt'oggi. Nureyev era un diamante grezzo. Veniva da Ufa, aveva questa passione per la danza, questo grande talento, però fuori dal palcoscenico aveva delle difficoltà. Margot lo prese per mano e questo diamante l'ha raffinato. Lei era tutto per lui, lei lui l'ha presa come mamma, come moglie, come amante, come amica, come consigliera, come esempio. E tutte queste sono cose importantissime per un artista che si sta formando e sta crescendo in quel momento. Il rapporto con Margot Fonteyn, che era 20 anni più di lui, era un rapporto tra madre e figlio, no? Che poi possa essere considerato anche un fatto di trasporto, probabilmente lei l'avrebbe anche amato volendolo, ma a mio modesto avviso lui non voleva neanche questi legami qua, no? I successi a Londra, Parigi, Milano fanno di Nureyev il ballerino più famoso del mondo e la danza diventa anche grazie a lui un evento non più destinato soltanto a un'elite, ma a un fenomeno di massa. Non è stato soltanto Nureyev chiaramente a riformare questo tipo di spettacolo e a renderlo popolare, o a sdoganarlo, come a volte si sente dire. Sono stati in parecchi, no? Béjart, che ha portato il balletto negli stadi, nel Palazzo dello Sport, nelle piazze. Poi c'era stato anche l'arrivo della nuova danza americana. Gli americani, che con delle cose moderne e nuovissime, hanno anche loro rivoluzionato la cosa. Nureyev è famoso in tutto il mondo e spesso riempie le pagine delle cronache mondane, ma nonostante la sua vita sia ricca di incontri e momenti straordinari, c'è un desiderio che lo accompagna da anni e che vorrebbe realizzare. Nureyev vorrebbe tornare almeno una volta a casa sua, in Unione Sovietica. Un sogno a cui deve a lungo rinunciare, che si realizzerà a sorpresa grazie a Mikhail Gorbaciov. L'idea fu mia. All'epoca ero il direttore artistico del teatro Mariinsky e sentivo che lui soffriva per non essere mai tornato e per non aver potuto mostrare al pubblico russo, al suo pubblico, quello che era diventato. Non mi ha mai detto esplicitamente: Oleg, fammi tornare. E pensava anzi che la mia proposta fosse utopica. Mi ha anche detto: forse è troppo tardi. Ma io gli ho risposto: no, Rudy, non è tardi. E alla fine ha accettato. C'era tutte le testate giornalistiche del mondo e televisioni che seguì questo avvenimento. Dall'Italia, mi ricordo, c'era una ragazza di Roma, ricordo benissimo il nome, Lonetta Bentivoglio, e allora credo che lavorasse per la Repubblica. E da Milano Ettore Mo. E ci fu un amore tra Ettore, un amore nel senso di rispetto lavorativo. Insomma, Rudo mi diceva: this is the real journalist, questo è un grande giornalista. Voleva tornare a vedere soprattutto la madre, sentiva nostalgia della sua terra, ma soprattutto la mamma, voleva tornare a rivedere la mamma. E allora Gorbaciov si è deciso: facciamolo tornare. E quando io ho saputo questa cosa, l'ho ricontattato e alla fine sono riuscito ad andare a Leningrado insieme a lui. Quando al telefono abbiamo cominciato a discutere di questo viaggio, sono stato molto sincero con lui. Sapevo di non potergli dare alcuna garanzia e non avevo idea di quello che sarebbe successo. Io non sono mai stato iscritto al partito, ma sentivo che i tempi erano cambiati e che un suo rientro era ormai maturo. L'accoglienza che riceve è trionfale, per lui è una delle soddisfazioni e delle emozioni più importanti della sua vita, anche se quel viaggio durerà solo pochi giorni. Mi ricordo che era molto emozionato. Emozionato alla vista della sua città, del suo teatro, dell'Accademia Vaganova, dove aveva studiato. Ma si emozionava anche a parlare con la gente che lo fermava per strada e che lo salutava. Fu un'immersione totale nei suoi ricordi, nel suo passato, e si vedeva che ne aveva una gran voglia. Il grande momento fu quando siamo andati fuori di Leningrado, la sua maestra, e lei gli ha detto: ho dovuto aspettare di vivere fino a 100 anni per rivederti. Sì, si emozionò nel vedere la sua vecchia maestra, ma si emozionò ancor di più a calcare di nuovo, dopo tanti anni, la scena del Kirov, il suo teatro. E quando si esibì, il Kirov era pieno come non mai. Fu un momento indimenticabile per tutti noi. Io c'ero. Ho visto quella sua esibizione. Ma devo dire che ho provato anche una grande pena. Si vedeva che era un grande ballerino. E con il mestiere riusciva a camuffare i tanti piccoli difetti dovuti all'età. Ma si vedeva anche che non aveva più le forze. Si capiva che era malato. La sua malattia è di quelle che non lasciano speranza. È l'AIDS. Ma anche di fronte a questa terribile esperienza, Nureyev non smentisce il suo carattere e continua a vivere il palcoscenico con impegno fino alla fine. Lui ha dato una grande lezione di volontà, di forza morale, una sua dignità che fino in fondo l'ha portata a termine. Gli ultimi anni che lui danzava, pur mantenendo questo rispetto immenso che io ho sempre avuto fino all'ultimo, mi faceva un po' male al cuore, perché purtroppo è inesorabile che ci sia un piccolo decadimento. E lui ha avuto una forza che non era, aveva del, del, forte, soprannaturale, oserei dire. Voleva morire in palcoscenico, ma questo non è solo Nureyev, ci sono molte persone, molti artisti che un modo di pensare, di vita, di scelta. Più che la tecnica, la gente riconosceva in lui il suo carisma, l'art, e l'art non è soltanto tecnica, è sogno. E lui ci ha fatto sognare fino alla fine. Nureyev muore il 6 gennaio del 93, poche settimane prima aveva concesso la sua ultima emozionante intervista a Ettore Mo, l'inviato del Corriere della Sera che aveva conosciuto anni prima e che ci racconta quel toccante incontro. È nata così che io avevo visto alla televisione l'ultima sua performance ed era pietoso, no? Si appariva veramente stanco, la faccia scavata, non era più neanche l'ombra del Nureyev che avevamo conosciuto anni prima. E quindi mi sono messo in contatto con il suo agente Pignotti, Luigi, e gli ho detto: senti, io ho una voglia matta di rivedere Nureyev. E lui mi ha detto: guarda Ettore, è impossibile, la cosa è assolutamente, non vuole più vedere nessuno, anche perché è in uno stato, sai, così, non vuole farsi vedere con il suo volto così scavato dalla sofferenza, non vuole avere giornalisti tra i piedi, soprattutto quelli che l'hanno conosciuto nei tempi aurei. Ed era una giornata di novembre, fine novembre, pioveva, tutte le finestre dell'ospedale erano rigate di pioggia, quindi di lacrime, ecco. E così sono andato a trovarlo. E mi hanno accompagnato nella sua stanzetta, era solo, era lì seduto sul letto e guardava la televisione, su cui c'era un programma che non lo interessava affatto, aveva gli occhi così e guardava questa televisione senza vedere niente. E così gli ho preso la mano e gli ho detto: ti ricordi, Rudy, quando ci siamo visti, ti ricordi a Leningrado? Sì, sì, mi ricordo. E allora gli ho detto: come stai? Sto bene, parlavo così sottovoce e si vedeva che soffriva, però ogni tanto aveva questi sui muscoli facciali, no? E a un certo punto ha chiesto a me: tu come va? E io dico: guarda, io dovrò tornare nei prossimi giorni perché c'è l'apertura del Don Carlos alla Scala il 7 dicembre col Don Carlos, lo dirige Riccardo Muti, canta Luciano Pavarotti. E lui mi ha detto: vengo anch'io. La danza è tutta la mia vita. Esiste in me una predestinazione, uno spirito che non tutti hanno. Devo portare fino in fondo questo destino. Intrapresa questa via, non si può più tornare indietro. È la mia condanna, forse, ma anche la mia felicità. Se mi chiedessero quando smetterò di danzare, risponderei: quando finirò di vivere. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.